ILPRDONOCOMEMEZZODILIBERAZIONE. Chi non sa perdonare rompe il ponte sul quale egli stesso deve passare. Il perdono cristiano non è indulgenza. L'indulgenza è uno sforzo, tende a cercare le circostanze attenuanti, tende a scolorire le offese, a mentire in qualche modo a noi stessi, a fare violenza alla propria coscienza per scusare gli altri. Il perdono è un miracolo. Chi perdona guarda il male in faccia, lo misura in tutta la sua forza, e poi lo perdona proprio perché ci è il male, così come Dio ci ama, a causa del nostro peccato, e non a causa delle nostre qualità. Il vero perdono comincia col riconoscere il male e col confessare l'istintivo sentimento di indignazione che esso suscita sempre in noi. Poi offre tutto a Dio per ritrovare la pace. Perdonare non significa dimenticare. Chi cerca di dimenticare spesso scopre di non riuscirci. Dimenticare può essere il risultato del perdono, ma non è mai il mezzo del perdono. Quando noi ricordiamo il passato a qualcuno, cioè i suoi errori nei nostri confronti, stiamo dicendo che non lo abbiamo perdonato. Il perdono è una scelta cruciale che riguarda la volontà. Se Dio ci chiede di perdonare, vuol dire che lo possiamo fare. Il perdono ci risulta difficile perché va contro il nostro concetto di giustizia. Inconsciamente o meno, noi vogliamo vendetta per le offese che abbiamo subito. Ma ci viene detto di non compiere mai le nostre vendette. Romani mezzogiorno 19. Se non perdoni, tu rimani ancora legato al passato, sei vittima della persona che ti ha offeso perché domina i tuoi sentimenti. Quando siamo in conflitto con gli altri, siamo sempre in conflitto con noi stessi. Quando perdoni, non sempre risolvi la situazione, ma comunque risolvi sempre il tuo problema. Perdonare significa rinunciare alla riparazione, essere disposti a vivere con le conseguenze del peccato di un'altra persona. Il perdono costa. Noi paghiamo il prezzo del male che perdoniamo. Vivrai con quelle conseguenze, volente o nolente. L'unica scelta che hai è tra il non perdono, che comporta amarezza, e il perdono che comporta libertà e gioia. Gesù ha preso su di sé le conseguenze del tuo peccato. Il vero perdono è sostitutivo perché nessuno perdona veramente senza addossarsi le conseguenze del peccato dell'altra persona. Dio ha fatto diventare peccato per noi. Colui che non ha conosciuto peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 2 Corinzi 5:21. Come puoi perdonare di cuore? Prima di tutto riconoscendo il dolore e l'odio. Il perdono riguarda il tuo dolore, non le scuse di un'altra persona. Se il tuo perdono non arriva al livello emotivo della tua vita, sarà incompleto. Molti sentono il dolore delle offese interpersonali, ma non vogliono riconoscerlo. Lascia che Dio porti in superficie il dolore per poterlo curare. Così avviene la guarigione. Non aspettare a perdonare quando ti senti di farlo, non succederà mai. Dopo aver compiuto la scelta di perdonare e aver fatto perdere a Satana il suo posto, Efesini 4, 26-27, ci vuole tempo per guarire i sentimenti. La libertà è ciò che si acquista di fatto, non un sentimento. Non dire: Signore, per favore aiutami a perdonare, perché Lui ti sta già aiutando. Non dire: voglio perdonare, perché così staresti scansando la scelta di fondo secondo cui è tua responsabilità di perdonare. Spesso sono sempre coloro che provano una difficoltà maggiore a perdonare, che perdonano in modo più completo. L'odio e l'amore sono due emozioni molto vicine fra loro. Dio ha scelto il perdono come mezzo di liberazione. A noi non rimane che accettare o rifiutare questo metodo. Per un cristiano che ha conosciuto il perdono di Dio, se non perdona, priva il prossimo di una gioia divina. E rimane schiavo di un suo atteggiamento che lo limiterà nella conoscenza di Gesù e nella crescita cristiana. Il bisogno di perdonare è un problema tra te e Dio. La vita è come una partita a tennis: se si ribattono sempre le palle non finisce mai. Perdonare significa lasciar cadere le palle senza ribatterle. La grazia ola.